ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida contro il Covid-19. Le persone giovani e in salute potrebbero dover aspettare fino al 2022 per essere vaccinati contro il coronavirus. A dirlo su Twitter alla ricercatrice capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Soumya Swaminathan. A Obiettivo Salute il commento del professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professor Pregliasco, buongiorno. Buongiorno a tutti. È una cosa che ho sempre detto, è vero, ci sono circa 200 progetti in linea per arrivare a dei vaccini e credo che dai dati ad oggi in nostro possesso probabilmente una ufficiale registrazione potrà avvenire per alcuni di loro entro la fine di quest'anno, ma l'industrializzazione, la distribuzione, l'effettiva possibilità di una vaccinazione di massa ovviamente è spostata nel tempo. Anche in Italia il vaccino Oxford Pomezia è già a buon punto e già si stanno producendo delle dosi di vaccino, perché nei vari accordi che gli stati hanno preso con i produttori è stato giusto appunto previsto di cominciare a produrre dei lotti in attesa di verificare se poi questi lotti potranno essere usati oppure buttati via. Però davvero l'applicazione generalizzata e sistematica la vedo in avanti col tempo, perché sarà data priorità ai soggetti più fragili, agli operatori sanitari e poi via via, un po' come succede per la vaccinazione anti-influenzale, ai soggetti invece sani. Professor Pregliasco, la Lombardia registra un'esplosione di contagi. Lei vede il rischio di un nuovo lockdown? Bisogna, a mio avviso, immaginarlo, programmarlo, pianificarlo se la situazione attuale dovesse peggiorare. Siamo in una condizione di limbo dove la crescita è ancora lineare, però è impegnativa, perché ogni nuovo paziente che entra in terapia intensiva o in ospedale non è che il giorno successivo viene dimesso e quindi c'è un accumulo di persone. Il punto di rottura arriverà, come sta capitando in Francia, nel momento in cui l'andamento potrebbe diventare esponenziale. Quindi dobbiamo riuscire a contenere questa diffusione. Se non ce la si farà, il rischio concreto purtroppo c'è, allora dei lockdown parziali in un ambito di un quartiere, di un territorio, devono essere pianificati e devono essere previsti. Speriamo solo come ipotesi di uno scenario peggiore che non si verifichi. Grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti. Bene, per oggi è tutto, come sempre vi do appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video interviste. Oggi parliamo di prevenzione, diagnosi e terapia del tumore al seno, siamo nel cuore del mese della prevenzione del tumore alla mammella. Non mancate, una buona giornata da Nicoletta. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.